Your headlights are on. Ora 21 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e naturalmente www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci via web. Spazio che andrà avanti fino alle 22.30 e poi ci sarà 25 o'clock. Industrial Ambient Noise, tutto ciò che ruota intorno ai vari, alle varie concezioni della sperimentazione. Salutiamo chi già è all'ascolto sin da ora, ossia Marco qui a Roma, al pari di Alicia, Maya e Nicola Locci in Sardegna. E altri ascoltatori affezionati, Tabula Rasa, Francesco Cornello, Alberto Clipper di MDMA. Cecilia Miradoli di Pindar, una interessante formazione, diciamo, di trip hop e dintorni. Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta. Soconsci Buzzo, ossia Enrico Ponzoni, insieme a Massimo Oderz Mascheroni. Oderz che hanno suonato recentemente qui a Roma, un ottimo live. A Like Awake, salutiamo anche lui, sempre qui da queste parti. E Mariano Virdi invece sta a Berlino. E iniziamo con andare a concludere i nostri ascolti riguardanti i Portraits, questa unione di intenti tra Gasparotti, Ciullini, Stancati, tre artisti della scena italiana dal afflato sperimentale che hanno messo 4-5 tracce per uno per formare appunto questo Portraits che esce attraverso la Next Place Sounds Group di, naturalmente, di Raffaele Pezzella. Le ultime due tracce riguardano Daniele Ciullini e si chiamano There Is Nothing Here e End Is On The Floor. e il CD ci stava tradendo nel lettore, ma con le buone maniere è ripartito questo Portraits, di un'opera ideata, suonata da a sei mani, come si suol dire, da Gabriele Gasparotti, Mariolino Stancati e Daniele Ciullini, del quale abbiamo ascoltato due tracce questa sera. Armonie volatili, ma anche screziature noise, kraut rock, momenti evocativi e più dilatati. Sono queste poi le caratteristiche che hanno, diciamo, abbastanza unito questi tre artisti in un'operazione relativamente nuova ideata da Raffaele Pezzella per la sua Next Place Sounds. Saluto Nicola Locci di nuovo come Stigmate e Hexagonal, Enrico Marcheggiani e il buon Massimo Mascheroni di Others. Ricordo ancora una volta un bel live la scorsa settimana insieme al buon Antonio qui a Roma. Enrico Marcheggiani dunque ci fa andare verso Blocco Nero. Blocco Nero è un progetto che ha avuto due momenti artistici abbastanza diversi, gli inizi che ascolteremo questa sera più dediti al neofolk e una seconda parte di carriera più vicina a noi, dove si è fatta maggiore la ricerca musicale. D'appello numero 1 del 2013, ci andiamo ad ascoltare Sconfitti ma non domi e la Nina Nanna del Rivoluzionario. Questo era ordunque appello numero uno del 2013 per quanto riguarda Blocco Nero, sodalizio milanese, a cavallo tra neofolk e atmosfere più sperimentali. E che si rifanno alla tradizione anarchica con varie riflessioni che si possono trovare sul loro profilo Bandcamp, che peraltro, e lo confesso apertamente, ho trovato decisamente per caso. Stavo cercando i Blocco 24, che sono un progetto molto diverso, più di Dark Wave, e mi è cascato anche lo sguardo successivamente anche a questo Blocco Nero. Sono andato a vedere e sono rimasto colpito da questi due lavori. Ottobre, lo ricordo ancora, e appello numero uno. Questa sera Sconfitti ma non domi e la Nina Nanna del Rivoluzionario, decisamente dolciastra. Quindi un momento acustico abbastanza anomalo per prove tecniche di trasmissione. Intanto saluto Doriana in quel di Taranto, Lucia Cagliazza di Lupsi, di nuovo Cecilia di Pindar, Wurnus Island, gli amici piemontesi con il loro ottimo industrial, Flavio e Arianna di Noise Cluster. E anche Phantom Ship nella persona di Roberto Faloci. Noi andiamo avanti e andiamo un po' a risentirci altri due momenti intensissimi dell'ultimo lavoro di Lingua Ignota, Sinner Get Ready. Artista decisamente in ascesa che mette d'accordo Diamanda Galas e Nick Cave. Ma anche i primi Swans, una miscela vincente e accattivante che ha portato allo stampare 3-4 lavori. Quest'ultimo è uscito nel 6 agosto e ci ascoltiamo I Who Bend the Tall Grasses e Many Hands. Always your voice. sacrifice is not extravagant. All I have is yours, and I swear I can't do it again. I swear to you, Lord, he has to die. There is no other way. Thank you. l'incredibile intensità che sprigiona questo single Get Ready di Lingua Ignota con la voce splendida di Christine Heiter. Proveniente dagli Stati Uniti. Lord, I cast off all my earthly bones. E che sovente a me fa anche tornare in mente l'altro genio che risponde al nome di Anna von Hauswolf. Soprattutto la prima traccia che ci siamo ascoltati, con quelle stratificazioni di organo. E poi invece la estrema tensione inserita in Many Hands. Saluto Progetto Non Aim con Dario Arrighi e Sara K.O. Fontana. Tra le influenze ho citato anche gli Swans, e quindi di tanto in tanto mi piace anche andare a recuperare del vecchio materiale meno noto, peraltro, come potrebbe essere questo Soundtracks for the Blind, uno degli ultimi atti della prima fase del combo newyorkese di Michael Gira. Due tracce abbastanza anomale. La prima si chiama Volcano e la seconda All Line Up. molto molto particolare questo Soundtracks for the Blind, una delle ultime gesta della prima fase degli Swans di Michael Gira, e ditemi se non poteva essere un disco dei Coil, per esempio, compresa la voce, è un dubbio, ce l'ho avuto per un attimo, soprattutto in questa line-up. L'alta carica visionaria che ha attraversato entrambe le due tracce, anche la prima con tutta quell'elettronica malata, distorta e irregolare con i vocalizzi di Gerbo, per anni compagna negli Swans. Disco particolare che ha tirato fuori tutte le potenzialità un po' nascoste da questo punto di vista degli Swans, che come molti sanno hanno privilegiato il noise soprattutto nella prima fase della loro carriera. Poi hanno avuto anche delle fasi più acustiche, poi la fine, e Michael Gira si è dedicato per anni a Angels of Light per riformare nel 2010 i nuovi Swans con innesti poderosi di psichedelia oscura. Psichedelia oscura e elementi trance presenti invece in un vecchio lavoro dei romani, New Procession Order, con Marcello Fraioli, Alessandro Papa e Gloria Bazzocchi. L'album in questione prende il titolo di At War with Christ and Satan, Veni Sancte Spiritus, la prima traccia, e poi Standing Amid the Ruins 1, We Are the Elects. Est ari, sana forme senza uccelli, flette con est rigido, fove con est frigido, regi con est debio, patuis fidelibus, indecco fidelibus, sacrum septenarium, da virtutis meritum, da salutis exitum, da pere